do il benvenuto a Patrick Joel Taceda Yonkeu. Buongiorno Patrick, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno Rachele. Allora Patrick, tu fai parte del Black History Month di Bologna. Ti chiedo un po' se ti va di raccontarci che cos'è questo Black History Month di Bologna. Il Black History Month di Bologna è nato dopo il Black History Month a Florence, che esiste da ormai 7 anni, nasce come una rete interistituzionale per promuovere la creatività e la storia dei popoli afrodiscendenti sul territorio italiano, da Firenze, però su Bologna è per la promozione delle storie e dei talenti afrodiscendenti sul territorio bolognese. Fino al 20 febbraio a Palazzo d'Accursi avete anche allestito una mostra dal titolo Le Filons Genealogiques, scusami il mio pessimo francese. E... Le Filons Genealogiques. Ecco, sì. Detto da te suona molto meglio. Ti volevo chiedere che cosa sarà esposto, come è organizzata questa mostra a Palazzo d'Accursi. Prima io inizierei dallo scopo della mostra. Questo progetto nasce da una serie di conferenze, un ciclo di conferenze che l'anno scorso abbiamo promosso, quest'anno per la seconda edizione di Black History Month, abbiamo promosso a Bologna intorno al concetto di geopolitica dei corpi che ho teorizzato perché avendo raccolto la storia di molti migranti afrodiscendenti, tipo storie di razzismo, di discriminazione, sul posto del lavoro, di sfruttamento, parlando di braccianti nelle campagne italiane o anche dei lavori mal pagati, lo sfruttamento della mano d'opera di afrodiscendenti e altre comunità. Anche il problema del rilascio del permesso di soggiorno, di cui anch'io sono stato molto spesso vittima, e quindi vedendo la storia passata dell'Europa in Africa, io parlo del colonialismo, a seconda degli studi postcoloniali fatti da parecchi storici afrodiscendenti, ma anche del mondo occidentale, ci possiamo accorgere che le pratiche che si facevano ieri su quei territori, lì, la forma di amministrazione o le politiche usate su quel territorio, su quei territori dominati, sono trasferite adesso sul corpo delle persone che provengono da quelle zone. Quindi praticamente il territorio geografico diventa la persona umana. E quindi questo concetto di geopolitica dei corpi ha visto l'adesione di parecchie associazioni in Italia, tra cui Black Lives Matter Bologna, Black Lives Matter Roma, e il Centro di Studi Africani del Piemontese, e anche Cantieri Metici, che per via di letture, di conferenze, di spettacoli hanno accompagnato questo ciclo di eventi. E quindi questa cosa, questo ciclo di eventi basati sulla geopolitica, sul tema geopolitica dei corpi, ha ispirato la mostra Le Filons Géologiques. Ma l'intento mio e del mio collega di Firenze, Justin Randolph Thompson, era quello di mettere a fuoco queste narrazioni molto spesso superficiali e distorte delle realtà effettive vissute da quelle comunità o della loro diaspora in giro per il mondo, attraverso un confronto intergenerazionale delle ricerche artistiche esposte in questa mostra, ma anche un confronto transnazionale. Vedrete dentro a questa mostra il contributo di afrodiscendenti non solo che fanno parte del territorio italiano che li ha accolti e in cui hanno fatto i loro studi in varie accademie, ma anche il contributo aggiuntivo di altri artisti della diaspora africana affermati, e da Parigi si può parlare di Assène Ouattara, Barthélemy Togo, che è un artista camerunense molto affermato a livello internazionale. Si può parlare anche di Alexi Pestin, che è un artista russo-brasiliano, afrodiscendente, anche lui, che vive a Parigi. Abbiamo altri artisti come Mouna Moussi di Bologna, che penso che è stata una dei pensionati, assieme a Francis Hoffman e altri artisti ancora che avrete l'occasione di conoscere, come Lerato Shadi, di cui il lavoro parla di una pratica che gli schiavi avevano come usanza di fare, un modo di rifiutarsi di essere deportati nelle piantagioni di cotone, di canna da zucchero per il commercio, la tratta degli schiavi. Loro praticamente ingoiavano la pera fino a crepare, era un modo di suicidarsi per protestare contro la loro deportazione, che troverete in un video in cui l'artista si mette in scena e mangia proprio la pera del suo paese. È un'artista sudafricana, è un video veramente difficile da digerire. Possiamo soltanto invitarvi a fare un giro a questa mostra per scoprire le altre sorprese. Bene Patrick, io ti ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino questa mostra che, ricordo ancora una volta, sarà visibile fino al 20 febbraio, quindi ancora c'è decisamente del tempo, a Palazzo d'Accursio. Grazie ancora Patrick, veramente. Grazie a lei Rachele.